finisce con un'intonazione decisamente horror, quella di Black Mountain Transmitter, che altro non è che James Robert Moore, con questo progetto che si muove appunto tra queste psichedelie decisamente marce, tra un suono che non è tanto si fa chiesastico, ma ovviamente una chiesa più legata a Lovecraft, appunto a tutto un immaginario. Prima dicevo e accennavo alla sorta di fanta horror fumettistico, per quanto esasperato appunto e puntato anche in maniera così decisamente visionaria, appunto da Black Mountain Transmitter, che non è da confondere con un'altra formazione, Black Mountain, che erano dediti a un acid rock più di maniera, diciamo, e invece appunto con questa trasmissione, questo in più, questo transmitter, quindi anche elettroniche deflagrate, distrutte, manipolate e depensate anche in alcuni momenti, è un drone che si fa anche tante volte minaccioso. Compiono questo piccolo gioiello che è Black Goat of the Moon, the Wood, appunto Black Mountain Transmitter. E se così la gravità mentale, concettuale di Black Mountain Transmitter passa attraverso un immaginario appunto orrorifico, ma con appunto quella visionarietà di tanto Lovecraft, e Aidan Becker invece parte da una struttura, se vogliamo, più classica. È un studioso, tra l'altro, insomma, di base a Berlino, ma con studi, insomma, anche di musica classica contemporanea fatti a Toronto, e poi si sposta tra New York, Montreal e Chicago, e elabora un discorso piuttosto, insomma, raffinato, legato alla drone music, a un drone sempre decisamente evocativo. Insieme a T-Maker riesce a fare della drone music un vero e proprio viaggio anche poetico dentro il suono, riuscendo appunto a evocare tanti aspetti, tanti paesaggi anche piuttosto così sconosciuti. È un suono che è sempre appunto vitale nel suo costruirsi e nel suo dronare, nel suo farsi appunto ambientale, spaziale nel vero senso della parola. E Aidan Becker, ci andiamo a sentire dal suo Aneira anche qua, e con momenti, insomma, di oscurità che poi stranamente vengono illuminati, squarciati da momenti di drone estatico. Beh, abbiamo anche ascoltato qualche nota di chitarra, tanto per ricordarci appunto che Adam Baker è un chitarrista, seppure insomma difficile da definirlo tale, e visto insomma la massa sonora che riesce a creare appunto attraverso solo la chitarra, ma di fatto insomma in questi anni, dagli anni 90 poi in realtà in poi, con certo post rock che si stava spostando sul drone, quando già non era isolazionista all'origine, appunto la massa sonora chitarristica è stata sperimentata. Poi d'altronde, come non ricordare, inizio trasmissione abbiamo citato Glenn Branch, appunto le masse sonore, quel drone, quel massimalismo incredibile che appunto portò alla uno dei vertici massimi dell'arte drone chitarristica, appunto lo storico Glenn Branch, che lo citavamo per quanto riguarda il discorso di Zev, che l'ha visto, ha visto il giovane appunto Zev dentro una delle orchestre chitarristiche appunto di Glenn Branch. E per concludere questo viaggio dentro questa concettualità così grave che abbiamo così voluto soprannominare heavy metal, e concludiamo con Bichin Bachas, formazione composta da Cooper Crane, Dan Quinlivan e Rob Fry, che tra l'altro appartiene anche alla formazione dei Cave, una sorta di viaggio post-crauto, post-post, eccetera. E con Bichin Bachas si va su un suono estatico, su un suono che deliberatamente va a prendere da certi momenti di anche proprio rilascio mentale, e un concetto che appunto va anche a impattare con un suono che tante volte da grave si fa anche decisamente leggero, appunto si va appunto a diventare astratto, e quindi a portarci anche in mondi insomma più idoni per magari fare sogni sonori, e quindi togliersi anche da gravità, che appunto abbiamo trattato questa sera dentro 451 frammenti sonori in compagnia di Max Macchia, che vi rimanda a tra un paio di mercoledì, perché in realtà insomma non ci sarò per un paio di settimane. E vi lascio comunque ovviamente in buone mani quelle di 451 intersezioni di Eliseo Scarpa, vi lascio al blog 451noblogs.org curato da Lorenzo Albano, e per qualche minuto di drone, di assurdità che vogliamo anche come dire tirare fuori da un Bichin Bachas quasi inedito per anche rumorismo, andiamo a prendere appunto da un live in Francia, a Parigi, dove si sente anche un certo fragore sonoro che magari in tanti dischi, se non forse nel primo, sono così esplosivi appunto dentro le musiche di Bichin Bachas, che così chiude questo heavy metal di 451. Io vi rimando alla prossima, anzi ai prossimi 451, anche quelli appunto mentali, quelli che ogni tanto così io immagino, e magari insomma potreste anche immaginare voi, perché no, poi magari in una sorta di quella misura ci possiamo anche appunto confrontare su quello. Blog serve anche appunto a buttare come dire idee, e che poi possono appunto anche portare da qualche parte, se no poi non portano da qualche parte, faremo della buona patafisica. Vi saluta Max Macchia, e appunto vi rimanda ai prossimi 451. Alla prossima.